Vabbè, abbiamo chiamato 3 giorni insani, strumenti e pratiche di autogestione e che abbiamo deciso di organizzare in realtà sulla spinta di una persona a noi molto vicina che non fa parte di XM24, una persona appunto a noi molto vicina, sostenitrice dell'altra città e che appunto da subito, dal primo giorno dell'occupazione, ha lanciato un po' questa cosa di organizzare appunto un incontro anche aperto ad altre realtà anche fuori da Bologna proprio su questo tema, cosa che noi abbiamo subito colto e fatto nostra. Un po' appunto sull'onda dell'entusiasmo dei primi giorni dell'occupazione. Perché volevamo comunque parlare da subito di questo tema per noi centrale, appunto, che è le pratiche dell'autogestione, cosa sulla quale, vabbè, ovviamente avevamo voglia di dare centralità a questo tema, portarlo un po' dall'esperienza di XM24 e metterlo subito al centro di quello che è l'esperienza che abbiamo aperto qui nella Sani, lo spazio, appunto, uno spazio abbandonato della città da più di 20 anni e che oggi festeggiamo due settimane dall'apertura e dall'occupazione di questo posto. E abbiamo pensato subito di farlo, di parlare di questi temi, parlando anche con altre realtà, sia della città che anche altre realtà da fuori Bologna, coinvolgendo appunto altri spazi sociali, occupazioni e lotte territoriali da diversi territori, come probabilmente avete visto sul programma, che magari tra un po' diciamo qualcosa di più. Perché, cioè, con l'idea appunto di costruire dall'inizio uno spazio aperto alla città e costruendolo con chi attraversa appunto questo spazio, partendo appunto da quello che stavo dicendo prima, un po' dall'autogestione come perno di quello che facciamo, di quello che vogliamo fare qui. Quindi da questo l'esigenza anche di confrontarci appunto anche con altre esperienze per costruire dall'inizio una cosa che sia realmente aperta e attraversabile e autogestita. Che cosa volevo dire? Vabbè, forse appunto probabilmente insomma avete già visto il programma di questi 3 giorni, io dico 2 o 3 cose giusto per presentare quest'iniziativa. E vabbè, cominciamo questa sera con il momento di adesso in cui abbiamo qui con noi Toni Senta, che presento tra un po', quando finiamo un po' questa introduzione. E cominciamo quindi con delle riflessioni su utopia e autogestione per aprire questi 3 giorni. Poi, prima della cena, vabbè, l'avrete visto, c'è una sorpresa fuori programma e ci sarà con noi Elio Germano che farà una cosa che vedrete dopo. Insomma, cioè, leggerà anche dei testi che insomma, abbiamo concordato con lui un po' anche diciamo, per riprendere anche quelle che sono state le reazioni anche dell'amministrazione comunale rispetto a questa iniziativa che abbiamo avviato qua dentro. Scusate, lo dico e non l'ho detto prima in introduzione, prima di passare il programma mi sono dimenticata, ma lo aggiungo e ricordo appunto che vabbè, questo è uno spazio occupato, non abbiamo avuto fino ad adesso interlocuzioni dirette con l'amministrazione che comunque si è espressa in modo non positivo rispetto alla nostra iniziativa in questo spazio. E niente, e quindi ci sembrava comunque carino anche riprendere questa cosa anche in quella forma. E questa sera poi andiamo avanti, vabbè, dopo la cena con un momento più storico che diciamo un po' l'idea e l'esigenza anche di fare un momento più di questo tipo è venuta anche da alcune persone più nuove che si sono affacciate anche a questa esperienza più di recente e che hanno appunto espresso un po' il bisogno di fare un po', di ripercorrere un po', diciamo, da dove veniamo e dove siamo adesso, cosa che poi ci è anche un po' utile, ci serve anche un po' per capire insieme anche dove vogliamo andare. E quindi facciamo questo momento più storico diciamo, sulla storia del movimento a Bologna dagli anni 70 ad oggi. e lo facciamo con alcune persone che sono già inserite nel programma e altre persone che interverranno, che abbiamo coinvolto e che hanno insomma delle esperienze da raccontarci. E domani invece, vabbè, domani mattina ci sarà, inaugura il nuovo mercato di Campi Aperti qua, e che alle 10 è una cosa nuova, una cosa molto bella che ci, diciamo, è un altro diventa un altro modo anche per aprire lo spazio alla città e renderlo attraversabile anche magari da chi ancora non l'ha conosciuto. E a questo mercato domani parteciperanno non solo appunto produttori di Campi Aperti, appunto l'associazione di piccoli produttori che fa agricoltura biologica con cui facevamo il mercato a XM24 il giovedì, ma verranno anche alcuni compagni e compagne della rete di Genuino Clandestino da altri territori a sostenere questa esperienza. Il programma della tre giorni sull'autogestione continua poi domani pomeriggio con un laboratorio che facciamo alle 3 del pomeriggio sul metodo del consenso, che ha un numero di posti limitato di 30 posti e per questo, come quello per la domenica che dirò tra un po', insomma, chi vuole iscriversi a questi laboratori più pratici prendiamo le iscrizioni domani mattina, non c'è iscrizione via web, diverse persone hanno scritto, ma lo facciamo direttamente domani mattina qui o allora insomma da chiudere entro dopo il pranzo, ecco. Nel pomeriggio, metà pomeriggio, passiamo un po' a quello che è il tema poi che affrontiamo un po' per tutto il giorno, che è più su ecologia politica e lotte territoriali, con un momento più teorico domani pomeriggio, con alcune persone appunto che si occupano più di riflessione sui temi dell'ecologia politica e anche con saranno qui presenti anche alcune persone di Friday for Future che oggi hanno fatto il quarto sciopero globale contro il cambiamento climatico e in serata invece abbiamo un momento più dedicato a lotte territoriali con alcuni movimenti comitati per appunto la difesa del territorio e contro le grandi opere. Ci sarà il movimento NOTAV, il movimento NOTAP e il comitato NOAB del gas di Sulmona, alcuni attivisti e attivisti contro l'Ilva che vengono da Taranto e altre persone che passeranno con noi un po' di tempo. E un po' diciamo quello che volevamo, ecco perché abbiamo pensato anche a questo momento all'interno della tre giorni sull'autogestione, perché ci interessava un po' anche attraverso, diciamo, lo sguardo su queste esperienze parlare un po' di quelle che sono anche le pratiche appunto anche di queste realtà di autogestione dei presidi territoriali, autonomia dei territori e cioè autodeterminazione appunto delle persone che vivono nei territori. E, non l'ho detto prima, ma vabbè, lo dico adesso, sia stasera che domani, poi chiaramente dopo i momenti più di chiacchiera che facciamo qui c'è musica. Questa sera c'è una musica Gnawa e domani sera invece Gemma Armonica e DJ Set. Invece domenica mattina facciamo un momento che abbiamo chiamato Vivere gli spazi, abitare i territori, beni comuni, occupazioni e autogestione, in cui si incontrano e si confrontano diverse realtà anche provenienti da appunto esperienze da altre città. Abbiamo coinvolto, riescono a venire ad essere con noi, abbiamo coinvolto diverse realtà, tra cui appunto Mondeggi, che è un'occupazione di terre che esiste da 5 anni vicino a Firenze, e, l'ex asilo Filangieri di Napoli e lo Scugnizzo Liberato, sempre di Napoli, e il Forte Prenestino da Roma, e invece per quanto riguarda più Bologna, diciamo, c'è cioè il Comitato ESA e Bancarotta, e con XM24 il Comitato ESA anche in parte, riportiamo anche poi, cioè, anche soprattutto come XM24 quella anche che è stata un po' anche la nostra esperienza rispetto a diciamo come si sono evolute le cose, in particolare anche nell'ultimo periodo per quanto riguarda relazioni con le istituzioni e l'apertura anche di questo spazio. perché domattina, diciamo, il momento di domattina è prevalentemente incentrato su quello che è la relazione appunto tra spazi sociali, esperienze sociali autogestite e città. Sia da un punto di vista di diciamo rapporto con i quartieri, con il territorio in cui queste esperienze prendono vita, e rapporto anche con le istituzioni, quindi forme di riconoscimento o non riconoscimento da parte delle istituzioni delle esperienze sociali autogestite. Nel pomeriggio ci saranno due cose parallele, sempre alle 15. Uno, un laboratorio sulla moneta sociale gestito dal laboratorio bolognese della moneta sociale autogestita, e poi ci saranno delle passeggiate per l'area Sani organizzate dal laboratorio di urbanistica che è nato in XM24, ed entrambe le cose sono a numero chiuso, con posti limitati, quindi 40 la prima, quella del laboratorio autogestito, e 30 la seconda, quella delle passeggiate, e sempre prendiamo le iscrizioni la mattina del giorno stesso, quindi domenica mattina. Chiudiamo la tre giorni con un'assemblea di restituzione e conclusione, un po' per un po' tirare le fila di quello che ci siamo detti in questi giorni, e anche un po' per mettere a fuoco quello che ci quelle che possono essere le cose anche più, diciamo, importanti anche da portare avanti nell'esperienza che abbiamo aperto adesso e per la quale abbiamo anche bisogno, appunto, lo ripeto, di confrontarci anche con altre realtà per farne realmente un'esperienza aperta, autogestita e attraversabile da più persone possibili. Ricordo che lo spazio, appunto, aperto da due settimane, ci sono un sacco di lavori ancora da fare, molte cose sono già state fatte. In due settimane questo posto è irriconoscibile, cioè è stata allestita la cucina di là, si sono sistemate delle stanze, rimangono tantissime cose da fare. E quotidianamente ci sono dei lavori per mettere in sicurezza e rendere abitabili gli spazi, e ogni giorno, cioè alle 2 del pomeriggio, c'è un'assemblea di coordinamento dei lavori da organizzare nello spazio, quindi se persone sono interessate a farne parte e a partecipare, ben venga. Ogni giorno qui alle 2 c'è qualcuno che si incontra e organizza ciò che c'è da fare. E ogni martedì la sera alle 20 facciamo l'assemblea, appunto, dello spazio, l'assemblea di gestione dello spazio, appunto, aperta a chiunque ne voglia far parte, voglia far parte di questa esperienza. E come diciamo introduzione sulla tre giorni, direi che ci siamo. E possiamo passare adesso al primo momento, che appunto si chiama Utopia e Autogestione, e in cui appunto c'è Tony Senta, nostro ospite e amico. Tony, che lo presento, dico due o tre cose adesso e poi gli passo la parola, così smetto di parlare. E Tony è un insegnante storico, diciamo, di formazione, fatto ricercatore per molti anni, appunto ora insegnante, si occupa prevalentemente, appunto, di storia e pensiero anarchico, ha curato e scritto diversi libri, appunto, su questi temi, sull'autogestione. In particolare cito, appunto, il libro La pratica dell'autogestione di qualche anno fa. E ha lavorato sul tema dell'utopia e delle utopie sociali del 8-900. E diciamo quello che ci presenta questa sera è un lavoro che ha già in realtà preparato anche in un'altra occasione, in particolare per una tre giorni che si è svolta all'Università di Valencia, appunto dal titolo Utopia e Ucronia, che si è svolta a maggio, giusto? E niente, quindi vabbè, Tony, diciamo, l'abbiamo coinvolto in questa cosa, appunto, sia per questi, diciamo, suoi percorsi più teorici, ma è anche, appunto, una persona, un compagno del Circolo Anarchico Berneri, e quindi, diciamo, questi sono un po' i temi che gli stanno a cuore, sia appunto dal punto di vista teorico che pratico, facendo parte di questa esperienza e di altre esperienze bolognesi. L'ultimissimissima cosa che dico è, adesso facciamo questa cosa, poi c'è la cena, tutto il resto della serata si terrà nella sala di là. Ci siamo un po' detti in questi giorni, nei momenti soprattutto in cui ci sono molte persone, cerchiamo di fumare fuori e cazzeggio di là e qua invece passiamo a questo momento. E io ti posso... Qualcosa serio. Va bene, ciao a tutte e a tutti, grazie, innanzitutto grazie per avermi invitato, è un ringraziamento non così formale ma molto sentito, grazie davvero, per me insomma è stato importante, ecco, dire, ma perché non ha piacere che diciamo di aver preso parte alla, sebbene lateralmente in qualche misura, alla primissima occupazione da cui poi nacque XM, cioè Via Ranzani, no? Quindi poi Via Fioravanti, ora qui, e insomma è un filo rosso ormai ventennale che continuiamo a dipanare, a tessere per l'appunto. Dunque appunto questo... Io ho lavorato un po' sul tema dell'utopia ultimamente e sul tema dell'autogestione più a lungo. Il tentativo di stasera è mettere assieme le due cose e dare quindi conto di alcuni ragionamenti collettivi, ma anche miei personali, insomma, su questi due temi. Io, prima di cominciare, vorrei, anche se le parole sono un po' difficili da trovare, vorrei ricordare Rocco e dedicare questa riflessione a lui, sperando che sia una riflessione valida o comunque utile alle nostre pratiche quotidiane. Innanzitutto un brevissimo riassunto su che cosa andrò a dire, così magari, no, non dico chi vuole se ne va, però insomma così insomma per capire un attimo di che cosa andrò a parlare. Allora, io analizzerò il concetto di utopia nelle sue dimensioni sia temporali che spaziali e l'influenza che questo termine, questo concetto ha avuto e ha, a mio modo di vedere, sui movimenti libertari, sui movimenti sociali in genere, potrei dire. Prenderò in considerazione alcuni pensatori, alcune figure chiave che via via citerò. È un'utopia che va intesa in maniera molto diversa dalle utopie classiche, perché non mira a definire diciamo un'architettura di un mondo ideale, rifugge da schemi fissi, da schemi soffocanti che in qualche modo possono implicare l'uniformità dell'individuo. È qualche cosa di diverso, cercheremo di capire cos'è, a mio modo di vedere. Secondo me ha innanzitutto due caratteristiche, due aspetti, due facce. Da una parte si dà un orizzonte ideale irraggiungibile nella sua pienezza e quindi si pone come un fattore, diciamo, indispensabile di un processo continuo di mutazione, di trasformazione. E però, se ci pensate, via via, nella storia del pensiero, l'etichetta di utopista, ma ancora oggi probabilmente, senza probabilmente, ancora oggi, l'appellativo utopista indica il fatto che l'autogestione e l'autogoverno sia, a mio modo di vedere, praticabile qui e ora, qui e subito, e addirittura sia, come ci dice per esempio Landauer, ci torneremo su questo, Gustav Landauer, sia presupposto etico dei rivoluzionari, cioè di chi vuole rivoluzionare questa società, sperimentare oggi l'utopia di società senza Stato. Quindi insomma un po' questo doppio binario: da una parte qualcosa di irraggiungibile, dall'altra però qualcosa che possiamo praticare qui e ora, almeno parzialmente. E quindi utopia come carburante, tra virgolette, come quello che fa funzionare il nostro generatore inquinante, però come carburante necessario proprio alla sovversione. Non un unico schema di società ideale da raggiungere, ma un orizzonte composto da un'estrema varietà associative. Lo definirei lo spazio dei mille modelli che esplorano le forme della libertà, con una doppia funzione. Anche su questo mi soffermerò un pochettino, se avete pazienza. Una funzione di agire in maniera sovversiva sull'immaginario, e anche di sperimentare nella teoria, nella pratica, progetti di società libertarie e egualitarie. Infine io concluderò questo mio excursus un pochino lungo con una domanda e un tentativo di risposta. Cioè, oggi io penso, mi pare di capire, che gli ambiti, le forme, i contenuti delle idee, delle pratiche antiautoritarie siano caratterizzate da un'alta frammentazione, da un alto grado di frammentazione, anche di segmentazione. Allora forse si può pensare all'utopia come ambito, come intersezione tra appunto questi vari ambiti, settori, pezzi di contestazione della società gerarchica. Io rispondo ipoteticamente sì, ritenendo, diciamo, che questa intersezione prenda proprio concretezza nelle varie pratiche dell'autogestione, e quindi che l'utopia, questa utopia, sia di fatto oggi presente nell'autogestione, se consideriamo l'autogestione come una forma molteplice di realizzazione pratiche, di realizzazioni probabilmente frammentarie, e allo stesso tempo come orizzonte desiderabile, quale io credo noi pensiamo, orizzonte desiderabile per gruppi sociali più ampi di quelli nostri. E credo che questa tre giorni, o meglio la due giorni successiva, il sabato, domenica, domani, dopodomani, possa dare conto, no, di questi gruppi sociali più ampi che si riconoscono in alcune, perlomeno, delle pratiche dell'autogestione. Questa è l'idea di, diciamo, quel che vorrei dire stasera. Mi concedo una mezz'oretta e poi mi autolimito, per pietà. Se ci pensate, spesso il termine utopia, utopica, è usato in maniera negativa. Beh, io penso che noi, inteso noi sovversivi, dovremmo e possiamo rivendicare il termine utopia, che è tutt'altro che negativo. Credo che dobbiamo intendere utopia in maniera diversa dalle utopie classiche, non l'identità tra verità e perfezione, quindi qualche cosa di perfetto, non qualche cosa che è un punto d'arrivo, quindi qualche cosa che segna l'eliminazione del conflitto, non qualche cosa di, come si dice, escatologico, no? Che arriva e deve arrivare e sarà la fine, o meglio l'inizio, o meglio la liberazione con la L maiuscola. Io credo che l'utopia sia un processo che non conosce soste, che muove continuamente da un obiettivo al successivo. A me ha sempre colpito una frase che ha scritto il vecchio Enrico Malatesta, dico vecchio perché è una frase di fine 800, 1889, riguardo all'anarchia. A un certo punto scrive: non si tratta di far l'anarchia oggi o domani o tra 10 secoli, ma di avanzare verso l'anarchia oggi, domani e sempre. Allora, secondo me, se facciamo un semplice giochino, molto semplice, un po' semplicistico, ma sostituiamo il termine utopia al termine anarchia, abbiamo proprio la concezione, secondo me, sovversiva, libertaria di utopia. Cioè, non si tratta di fare l'utopia oggi o domani o tra 10 secoli, ma di avanzare verso l'utopia oggi, domani e sempre. Quindi un orizzonte che da una parte si allontana via via e dall'altra però è indispensabile per farci camminare, diciamo, verso pratiche più egualitarie, più libertarie dei rapporti sociali, nei rapporti sociali. Ho trovato un'altra frase, se Malatesta di appunto ultimi decenni dell'Ottocento, questa frase, ho trovato un'altra frase di un compagno morto pochissimi anni fa di Milano, Amedeo Bertolo, uno dei tanti compagni attivi nella controinformazione per la strage di Stato, di cui ricorre tra pochissimo il cinquantenario, e poi attivo sotto molti ambiti. E sempre definisce l'anarchia, ma per me potremmo fare lo stesso gioco, tra virgolette. Allora lui scrive questa frase, che mi sembra simpatica. Dice: l'anarchia pura è come l'alcol al 100%, è imbevibile. Se la si vuol rendere bevibile, deve essere prodotta con gradazioni inferiori che variano secondo tempi e luoghi. Anche qui, secondo me, se sostituiamo al termine anarchia il termine utopia, otteniamo la definizione di utopia sulla quale vorrei scavare, vorrei indagare, vorrei riflettere. Cioè l'utopia pura è come l'alcol al 100%, è imbevibile, però se la si vuole rendere bevibile deve essere prodotta con gradazioni inferiori, che variano secondo tempi e luoghi. Allora vuol dire che queste gradazioni inferiori sono praticabili, bevibili, qui e ora, subito, immediatamente, che appunto ci dà, secondo me, anche una caratteristica ulteriore dell'utopia. Mi rifaccio qui, per esempio, al pensiero di Gustav Landauer, ebreo-tedesco. Stiamo parlando sempre di un attivista protagonista, diciamo, degli eventi a cavallo tra 8 e 900, tra l'altro assassinato nel corso della repressione della Repubblica dei Consigli. Siamo in Baviera, siamo nel 1919, tra l'altro pochissimi mesi dopo la morte forse più nota, l'assassinio a Berlino di Rosa Luxemburg e di Karl Liebknecht. Allora, nel pensiero di Landauer, secondo me, è evidente questa cosa. Lui dice che l'autogoverno, sinonimo di autogestione, è possibile qui e ora, ed è proprio lui che dice che è presupposto etico, morale, dei rivoluzionari sperimentare l'utopia di società senza Stato, cioè cominciare da subito. A che cosa pensa? Pensa a federazioni di cooperative di produzione, cooperative di consumo, cooperative culturali, organizzate direttamente dai lavoratori e funzionanti secondo i principi della democrazia diretta. E questo anche è democrazia diretta, cioè avere democrazia, avere, diciamo, rappresentanza senza cosiddetto vincolo di mandato, insomma una forma di cui si parla tantissimo e a sproposito, però diciamo che era la forma, per esempio, della rivoluzione francese nei suoi elementi più popolari, no? Prendiamo parola noi direttamente in assemblea, senza delegare dei rappresentanti in maniera permanente nel Parlamento o nelle sue varie sinonimi. Ecco quindi che appunto in Landauer abbiamo un'utopia che può esistere subito nella contingenza, che è profondamente etica. Perché è etica? Perché qui e ora, diciamo così, sperimentiamo un progetto utopico che si dà dei mezzi, che si delinea con dei mezzi, delle modalità che sono conformi al nostro fine. Noi vogliamo una società liberata, bene, cominciamo a liberarci subito. Questo Landauer lo diceva a fine Ottocento, a noi sembrano cose che sono nostra invenzione, no? Tutto ciò in realtà hanno radici e anche sperimentazioni antiche. Ecco, a suo modo di vedere, l'interazione tra cooperative di consumo, cooperative di produzione, cooperative culturali, altre forme pratiche di vita comunitaria, appunto funzionanti secondo il principio della democrazia diretta, danno concretezza, danno vita all'utopia, danno vita addirittura, a suo modo di vedere, a controsocietà, al plurale, che si sottraggono, in grado di sottrarsi all'influenza della società esistente. Un allievo di Landauer è questo Martin Buber, alcuni di voi probabilmente l'hanno ne hanno già sentito parlare sicuramente, filosofo, narratore, traduttore, uno dei principali esponenti della cultura ebraica del Novecento, influenzato dal pensiero di Landau, scrive questo bellissimo Sentieri in Utopia, tra l'altro curato da Donatella di Cesare recentemente, o meglio una decina di anni fa nell'edizione italiana. Lui rivendica l'appellativo di utopista. Dicevo prima, l'appellativo di utopista all'epoca, nell'epoca dell'egemonia marxista novecentesca in particolare, è stato usato come arma per denigrare gli avversari politici, no? Lui invece rivendica questo appellativo di utopista e dice che è una tensione, indica una tensione presente in Saint-Simon, in Fourier, insomma in Owen, nei cosiddetti socialisti utopistici, ma presente anche in Proudhon, in Kropotkin, nello stesso Landauer, il suo maestro, se vogliamo. Che cosa è questa tensione? In che cosa consiste questa tensione? Che l'utopia non è più un altrove ideale, ma appunto è prefigurazione, che è qualcosa di diverso, è prefigurare, praticare anche uno scenario possibile nel futuro, però anche in parte, almeno in parte nel presente. Il discorso che facevo prima. Anche in Proudhon c'è un po' questa caratteristica, in Landauer c'è questa caratteristica. Buber le mette in evidenza e mette in evidenza con accento polemico come questi tentativi di sperimentazione siano stati combattuti prima da Marx e poi da Lenin in nome di un principio politico, che ha voluto contrapporre all'azione autonoma dei consigli da intendere come soviet, cioè come assemblee di base, diciamo, e delle cooperative, la supposta efficienza burocratica e centralizzata dello Stato. Quindi Landauer appunto cerca di rivalutare questa versione eretica del socialismo, se vogliamo. Un'altra pensatrice su cui ho abbastanza lavorato è sicuramente Maria Luisa Berneri. Anche lei probabilmente è abbastanza sconosciuta. Chi è Maria Luisa Berneri? È la figlia di Camillo Berneri, probabilmente più noto, quindi anche lei esiliata con la famiglia in Francia, attiva nella Spagna della guerra civile, dove viene assassinato, come sapete, dagli stalinisti suo padre, Camillo, e dopo, insomma, dopo l'assassinio di suo padre ripara a Londra, quindi siamo a fine anni 30, siamo durante la seconda guerra mondiale, poi inizia anni 40, ripara poi a Londra, collabora a varie testate, muore a 31 anni di età nel 1949 e purtroppo ci lascia alcuni scritti, secondo me, molto, molto pregnanti. Ne riassumo uno brevemente. Viaggio attraverso Utopia, pubblicato in più lingue, in inglese, in spagnolo, pubblicato in Argentina, pubblicato anche in italiano, è un libro degli anni 50, ha trovato una pubblicazione in Italia solo nella fine degli anni 80. Che cosa ci dice Maria Luisa Berneri? Ci dice, lei analizza tutta una serie di utopie, di progetti utopici, dall'antichità fino ad arrivare all'8-900. E sostanzialmente dice che ciò, le società che le piacciono, le società utopiche che le piacciono, sono quelle poche che presentano caratteri di apertura, che fuggono da complicati meccanismi e apparati burocratici, che fuggono da schemi che lei definisce come fissi, come soffocanti, che non mirano all'uniformità dell'individuo e che anzi ne permettono la piena libertà. Ad esempio, l'abbazia di Thelem nel Gargantua e Pantagruel di Rabelais, ad esempio le notizie da nessun luogo, News from Nowhere di William Morris, pubblicato a fine 800 a puntate. Che cosa succede in quest'ultima utopia? Qui è ambientata in una Londra futuristica, il Parlamento, dal momento che è diventato inutile, è stato trasformato in un deposito per il concime. Non ci sono fabbriche, non ci sono padroni, ma laboratori in cui gli uomini si riuniscono volontariamente per produrre ciò che è davvero necessario per la comunità. Non c'è diritto privato, non ci sono prigioni, non c'è proprietà privata, non c'è denaro. Scrive così Maria Luisa Berneri: ognuno è padrone di sé e non delega il suo potere a un gruppo di persone che emanano leggi e infliggono punizioni se le leggi non vengono rispettate. Ognuno è davvero uguale al suo simile, non solo perché riceve la stessa porzione di cibo e di vestiario, ma anche perché non ha autorità sul suo simile, né il suo simile ne ha su di lui. Ora, queste poche utopie libertarie sono contrapposte a una quantità di utopie viste invece come sostanzialmente totalitarie, autoritarie sicuramente, ma anche totalitarie, a partire dalla famosa Repubblica Platonica, per arrivare fino alle altrettanto famose L'Utopia di Tommaso Moro, di Thomas More, alla Città del Sole di Campanella. Ecco, tutte queste sono effettivamente viste come diciamo utopie chiuse, utopie come qualche cosa di perfetto, come qualche cosa di immodificabile. A ciò Maria Luisa Berneri contrappone l'idea di utopia aperta, cioè una concezione perennemente aperta, suscettibile di continue trasformazioni, e quindi una pluralità di modelli contro il modello unico, platonico potremmo dire. Un'altra contrapposizione: da una parte il praticare, il provare a praticare la felicità qui e ora, da subito, ripeto, dall'altra invece anche il sacrificio in vista di una felicità futura. Ecco, anche questa è una contrapposizione, secondo me, ben netta. E ora Maria Luisa Berneri, con questa sua riflessione degli anni 50, secondo me contribuisce a un'opera di rimodellamento dell'utopia che poi sarà continuata dalle generazioni successive. E c'è una tensione molto netta a far coincidere l'utopia non con il concetto di uguaglianza, ma con il concetto di libertà e quindi di uguaglianza, che è qualcosa di diverso. C'è appunto, ripeto, il rifiuto di queste che io chiamo architetture coerenti, architetture perfette, dove noi, nel senso l'essere umano, dovrebbe incasellarsi, però in uno spazio già predefinito. Qui c'è qualche cosa di diverso, qui in Maria Luisa Berneri, c'è un carattere di apertura, di sperimentazione, di perfettibilità, contrapposto a perfezione, quindi non raggiungiamo la perfezione, ma proviamo a perfezionarci via via, o meglio, raggiungiamo qualche cosa che è perfettibile, migliorabile, continuamente migliorabile. E inoltre queste utopie, non, secondo me è fattore molto importante, non segnano la fine della storia, no? Se ci pensate, l'utopia è in qualche modo classica, vorrebbe essere proprio la fine della storia. Bene, qui ci dice no, la storia non finisce, il conflitto non si elimina. Si vive, si gestisce, si affronta, ma non si elimina. Arriviamo un po' ai giorni nostri, o meglio, arriviamo a alcune considerazioni mie che prendo anche in realtà dal pensiero anarchico internazionale, anarchico e non solo, diciamo sovversivo in genere, post 68, per questo dico ai giorni nostri, no? Relativamente ai giorni nostri, in questa parte di spazio appunto degli ultimi 50 anni circa. L'utopia in questo senso appunto è stata rivalutata, è stata rifatta propria, il 68 secondo me l'ha portata, gli ha dato nuovo valore. In che senso, da un punto di vista libertario? Secondo me come appunto lo spazio di questi modelli plurali diversi che esplorano le forme della libertà, appunto con questa duplice funzione: da una parte sovvertire l'immaginario sociale e tra un pochino mi soffermo un attimo sul concetto di immaginario, e dall'altra parte, ripeto, sperimentare progetti di società libertarie, egualitarie. Qui stiamo progettando, stiamo facendo, sperimentando un progetto di società libertaria. Non credo che i termini ci debbano spaventare. Società al plurale, non vogliamo un'unica società uguale per tutti, però forme di società, cioè di rapporti sociali diversi, rapporti umani anche diversi. Allora questa utopia è un po' quella della società, o forse le società al plurale, contro lo Stato. È la rivolta dei gruppi sociali dominati contro il principio della dominazione, contro la logica del potere riassunta nello Stato, ma che non si esaurisce nello Stato. No, la logica del potere si riproduce in tanti ambiti che non sono prettamente statali, credo. Però perché queste società, cioè si possano muovere contro lo Stato, devono innanzitutto potersi immaginare come possibilità reale, non come sogno. Cioè devono sperimentare l'assenza di ruoli di potere, sperimentarsi senza strutture gerarchiche. Deve pensare forme di autogestione, di democrazia diretta, di decentramento, di federalismo. Deve sperimentare rapporti non gerarchici tra uomo e donna, tra adulti e bambini, tra città e campagna, tra quello che una volta si chiamava lavoro manuale e lavoro intellettuale, tra diverse forme di lavoro. Deve pensare, insomma, e sperimentare modelli utopici, per l'appunto. E appunto, quindi, rivolta individuale collettiva contro il dominio possibile solo se la pensiamo possibile. Cioè se si pensa come possibile ciò che diciamo la ragione di Stato, l'inconscio statale, non so come chiamarlo, ci dicono che è impossibile. Bene, noi dobbiamo pensarli possibili. Quindi ancora, quale utopia? Secondo me non un'utopia che sia solo immagine del futuro, non solo quindi utopia come cosa bella, bella ma irrealizzabile, impossibile, ideale ma impossibile, però neanche solo appunto immagine del futuro, perché il futuro, cioè, non esiste senza presente, e il concetto di futuro, la dimensione del futuro, secondo me, è del tutto legata al presente. Passato, presente, futuro sono costitutivamente legati, se ci pensiamo bene. Allora, un'utopia, quindi non come modello, l'utopia di Tommaso Moro, la Repubblica Platonica, non come modello, ma come funzione, come strumento, come mezzo. Secondo me il termine più adatto è funzione, appunto. Cioè una funzione innanzitutto rivoluzionaria, cioè che ci consenta, che consenta a chi vuole di compiere proprio un salto culturale, un mutamento, una mutazione culturale. Cioè la funzione, diciamo, di far crescere la volontà di cambiare la società dove siamo, di fare crescere anche la speranza, se vogliamo. Possiamo anche utilizzare questo termine, a mio modo di vedere. Perché? Perché lo Stato, di fatto, come principio di autorità, è innanzitutto nella nostra testa, è innanzitutto, cioè, come prima cosa nella nostra testa, o perlomeno nella testa della gente, ma anche nella nostra, no? Dei servi. Forse ancora più che dei padroni, o dei servi, anche dei servi e non solo dei padroni. Quindi dobbiamo, secondo me, dissolvere quello che qualcuno chiamava stato incosciente, che è poi il principio di dominio, il principio di dominazione, il principio di autorità che abbiamo tutti. e appunto permettere di liberare energie potenziali enormi in questo senso. Quindi innanzitutto questa funzione. Un'altra funzione, la seconda, è quello di portare non a un ulteriore sistema chiuso, come avrete capito, come succede a quelle utopie che di fatto si muovono nello spazio del potere, perché tutto vogliono regolare, diciamo un'utopia che è permanente, che quindi porta a un sistema aperto, non a un sistema chiuso. Forme di libertà inesauribili, okay? Forme di sperimentazioni utopiche inesauribili. Allora, questa utopia sono in realtà mille utopie, molteplici utopie, che non solo si possono succedere l'una all'altra, ma anche possono coesistere una con quell'altra. Tutt'altro rispetto a una costruzione monolitica, una costruzione omogenea. Questi sono un po' i miei appunti, diciamo, sui quali sto un po' lavorando. Forse gli ultimi 10 minuti, diciamo così. Allora, innanzitutto volevo spendere ancora due parole sulla questione dell'immaginario. La questione dell'immaginario chiaramente viene da Castoriadis e anche altri. Che cos'è l'immaginario? Diciamo che l'immaginario non è una creazione dal nulla, è una creazione incessante, è una creazione indeterminata. Cioè, con immaginario non dobbiamo pensare l'immagine. Non è l'immagine di, non è sono io che mi guardo allo specchio e vedo la mia immagine. Immaginario è una creazione nuova. Parliamo di immaginario quando vogliamo parlare di qualche cosa di inventato. Sia che si tratti di un'invenzione assoluta, una storia immaginata di sana pianta, sia che si tratti di uno slittamento, di uno scivolamento, di uno spostamento di senso, in cui dei simboli che già abbiamo vengono investiti di altri significati rispetto a quelli normali, canonici. Ok, quindi sia invenzione sia spostamento, slittamento, detournement, non so come lo vogliamo chiamare, qualche cosa del genere. È un immaginario che qualcuno ha chiamato immaginario capovolto, quindi il nostro, è un immaginario sovversivo, è un immaginario appunto capovolta, per capovolto rispetto a cosa? Rispetto a una realtà che è stabilito dallo Stato, dal principio di autorità, che si esprime attraverso il mito e che ha come suo nemico dichiarato proprio l'utopia. C'è un immaginario capovolto. L'utopia appunto è un'immagine di alterità che si oppone a questa realtà sociale e che tende quindi alla critica radicale di ciò che è istituito. E l'utopia, nei momenti, diciamo, che le sono favorevoli, da progetto si trasforma in profezia quasi, o comunque si trasforma, vuole, pretende l'azione collettiva, e allora diventa rivolta, allora diventa insurrezione, allora diventa rivoluzione. In ultimo, ma perché ci racconta tutto questo in una 3 giorni sull'autogestione? Bene, spero di averlo annunciato un po' all'inizio. In secondo luogo, perché appunto provo a rispondere un po' a questa domanda che riprendo brevemente, cioè mi pare fuori di dubbio, oppure se c'è qualcuno che lo contesta ben venga, però a me pare che le pratiche, diciamo, di anti-autoritarie, diciamo di sovversione di questa società, siano certo diffuse più o meno oggi, però siano sicuramente frammentate, siano segmentate. Allora appunto l'utopia può essere l'intersezione, no, tra questi vari ambiti di contestazione. Questo è il mio tentativo di risposta, cioè l'utopia può essere una, può fornire un ambito di unione, non voglio usare il termine ricomposizione, però è un po' quello il concetto, di ambiti separati, no? Vediamo che ognuno sembra andare per conto proprio. Ecco, secondo me sì, se appunto prende concretezza nelle varie pratiche dell'autogestione. Cioè l'autogestione secondo me è una forma molteplice di realizzazione pratiche dell'utopia, che mantiene anche un orizzonte desiderabile più ampio per più grossi, più estesi gruppi sociali. Autogestione la definisco come una trasformazione dell'immediato, potenzialmente applicabile in ogni tempo, in ogni spazio, una pratica organizzativa che si caratterizza per forme solidali, liberate o comunque in continua liberazione dalla competizione e dall'interesse personale. Perché si realizzi, secondo me, è necessaria un'operazione mentale, immaginaria, per l'appunto, di distruzione o di scavalcamento di quei muri che ci sembrano chiudere la nostra, cioè che non sembrano, ma che ci chiudono la nostra visione di stare in società in maniera diversa o di altre società possibili. Allora, appunto, rispetto al paradigma dominante, l'autogestione è anch'essa un immaginario altro, un ordine simbolico tutto diverso rispetto a quello del dominio. Quindi l'autogestione va prima di tutto, se ci pensate, io credo, no? La autogestione va prima di tutto immaginata come possibile, poi istituita, cioè resa possibile attraverso un atto di volontà e quindi praticata. Sono i passaggi, secondo me, di un autogoverno o autogestione, li intendo un po' come sinonimi, che destrutturi il governo. L'autogestione, appunto, dicevo, a mio modo di vedere, è sinonimo di autogoverno, sinonimo anche di una bruttissima parola che i compagni non vogliono mai che io utilizzi, ma ogni tanto utilizzo così, perché la usa anche Volin, che è un anarchico russo che ha partecipato alla rivoluzione russa e ne ha poi criticato la degenerazione del bolscevismo, così come lui la intende, degenerazione termine suo. Lui dice che nella rivoluzione russa, cioè in quegli anni che vanno dal 17 al 21, soprattutto nelle zone dell'Ucraina liberata, che lui un po' curava, diciamo, cui stava dietro, stiamo parlando di alcuni milioni di contadini, veniva messa in pratica un'autoamministrazione, no? Cioè, diciamo, amministrare, gestire, se non vi piace il termine amministrare possiamo cancellarlo, gestire la cosa pubblica in propria, secondo regole condivise, secondo forme di democrazia diretta, ancora una volta. E questi sono tutti elementi che troviamo nei tentativi, nelle sperimentazioni di autogestione di tipo sovversivo, di tipo libertario in genere. Autogoverno anche, perché governo? Ma cioè, i sovversivi io credo si siano e si oppongano al governo in quanto etero governo, cioè governo di altri. Qualcuno ci vuole governare, qualcuno mi vuole governare, ma non si oppongono all'autogoverno, cioè ci diamo regole condivise che tutti rispettiamo. Ebbene sì, certamente, io sono convinto di questo. Ecco, non a caso il principio, io credo, dell'autogestione, e vado a chiudere, è quello che storicamente è stato chiamato libero accordo. Ora noi possiamo trovare termini più consoni al millennio, se volete, più millennial, però è sostanzialmente questo, è un patto volontario, no? È un patto tra uguali per collaborare in maniera orizzontale secondo un principio che non sia quello gerarchico. Ancora, l'autogestione secondo me si configura come qualche cosa di natura molteplice, come qualche cosa di non definitivo, come qualche cosa di plurale, di pluralista anche, di aperto a sperimentazioni diverse e accomunate da ricercare relazioni sociali che si oppongano ai rapporti di dominio e alle strutture gerarchiche. Sappiamo bene che anche in un contesto autogestito l'assenza di dominio non è cosa acquisita, va praticata, va garantita con dei meccanismi da sperimentare e da uliare, quale la rotazione dei compiti, ma anche molti altri, no? Con la partecipazione in prima persona, con la consapevolezza che in sostanza l'autogestione non è qualche cosa, non è una formula, è un processo complesso che appunto può assumere forme diverse. Con queste caratteristiche io credo che l'autogestione compia un atto di rottura rispetto all'ordine simbolico, all'ordine sociale attuale. Appunto, si fonda, come ben sapete, su un'etica altruista, solidale. Io qui appunto vado davvero a chiudere, su questo non mi dilungo, ne abbiamo parlato altre volte in altri ambiti nel corso di quest'anno, dell'anno scorso, cioè io ho provato a ragionare un po' sul fatto che l'autogestione si basi, per essere tale, si voglia basare non sulla ricerca del massimo vantaggio o interesse personale, che sembra essere il principio che muova l'uomo nella società capitalista, ma sulla tensione di ciascuno verso, fatemelo chiamare, il bene comune, poi possiamo trovare altri termini, verso l'interesse comune, ecco. E quindi, no, a questo, diciamo, classico homo economicus, come è stato via via ribattezzato, noi io e altri abbiamo provato a ribattere con un uomo, giocando un po' sul latino, con un uomo reciprocans, no? Un uomo che giochi, un uomo nel senso l'essere umano ovviamente, un uomo e una donna, che giochi sulla reciprocità delle relazioni, in cui quindi ciascuno trovi il proprio interesse negli interessi di tutti e appunto una modalità relazionale che si basi su pratiche di solidarietà e di mutuo appoggio. Qui chiudo, in questo senso secondo me l'utopia può essere sperimentabile qui e ora, cosa che andiamo facendo, e insieme può e deve essere carburante per la ineliminabile tensione necessaria verso la sovversione dell'ordine istituito in tutta la sua interezza, fuori da queste mura, fuori da questa città e altrove. Grazie. Volevo ringraziarti innanzitutto per l'intervento illuminante, anche e soprattutto per il concetto dell'utopia in divenire, che è una cosa che si forma appunto nel tempo, e io non avevo idea neanche di tutta l'esistenza di utopie diverse da quelle chiuse che impari a scuola, insomma. E, no, volevo chiederti un passaggio che non ho capito sul a una certa hai parlando della felicità dicevi è contrapposta una felicità attuabile subito a una una felicità appunto attuabile subito a una, diciamo, a dei sacrifici fatti nel presente per poi portare a una felicità più alta. Non ho capito se era una contrapposizione tra, cioè, due differenti utopie, non questo passaggio qua. Ma credo che sia tipico del pensiero cristiano e poi anche del pensiero marxista, almeno in parte, in buona parte secondo me, il fatto che sia necessario, cioè sia auspicabile raggiungere una sorta di al di là, che può essere certamente anche terreno, però che è di là da venire, e di là da venire sarà, si spera, insomma, un regno della felicità in qualche misura. Ma questo è stato sottoposto a critica da tantissimo tempo e da più parti, da più parti, dicendo cominciamo a sperimentare forme perlomeno parziali di felicità anche qui e ora, subito, no? perché sacrificare la nostra vita in vista di una felicità che ci dicono che raggiungeremo, ma chissà se raggiungeremo, forse non è esattamente auspicabile. Tutto qui era un po' una, no, non una provocazione, era un po' una precisazione sulla su una concezione vecchia, ma non perché vecchia è sbagliata, una concezione secondo me criticabile, che è stata ripresa anche dai movimenti militanti spesso, per cui è necessario un sacrificio dell'oggi per raggiungere un risultato domani. Io credo che sia necessario un impegno consapevole, una consapevolezza per l'appunto, una libera assunzione di responsabilità per darsi regole condivise, ma questo non è sacrificio. Questo è per quanto ci lasciano, per quanto è possibile in questa società, è una forma di vita e quindi in sé di felicità.